Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di Radio Tube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Piazzale Cadorna, a Milano. Ha fatto nascere i Marta sui tubi, ma ora esordisce da solista con Urlo Gigante, Giovanni Gulino. Io non ho mai pensato di fare un album solista, perché i Marta sono casa mia, i Marta li ho fondati io, quindi cioè, è successo che 4 anni fa abbiamo deciso di fare una pausa, che doveva essere di 6 mesi, un anno, e poi invece non è finita più, non si è interrotta più. Morale della favola, mi sono trovato una marea di materiale che avevo accumulato nel corso degli anni, allora mi sono detto, beh, è inutile fare marcire e far invecchiare queste canzoni nel cassetto. Non basta più restare cinici e taglienti, che un bel giorno poi ti svegli al manicomio, la follia ci viene incontro sempre, quindi un po' di follia serve. La sana follia, la follia intesa come il coraggio, la bizzarria di uscire fuori dagli schemi, di metterti in gioco, di confrontarti con cose che ti sono strane. Penso che questo è un modo per crescere, per confrontarsi, per scoprire anche se stessi. Se fai una vita sempre piatta, uguale, monotona, facendo le stesse cose e frequentando sempre le stesse persone, non so quanto di stimolante ci possa essere. Mentre il fatto di coltivare una sana irrazionalità ogni tanto nelle scelte che fai, anche per fare una strada alternativa, non fare sempre la stessa strada che ti porta a casa, può essere un pizzico di follia, però ci vuole. E se io avessi avuto un grammo di cielo per ogni volta che ho avuto un sapore, quanto giochi con le figure retoriche, la sinestesia, con i parallelismi, proprio anche con i giochi di parole, anche un po' dadaisti, ce ne sono molti in questo disco? Beh, è divertente soprattutto, è una cosa che mi diverte fare, l'ho fatto spessissimo anche con i Marta, quindi fa parte un po' del mio modo di cantare. Mi interessa molto anche la pulsione ritmica di alcune ripetizioni che ti possono diventare proprio dei veri e propri beat, quindi l'idea di ogni tanto di invece di usare la batteria o quello che dovrebbe essere un suono percussivo può essere sostituito da una serie di parole che si susseguono in maniera ravvicinata, creando proprio dei loop di suoni che poi perdono a volte il loro significato lessicale, diventando proprio pulsazione, diventando suono. Sperando che tutta l'attività live ricominci il più presto possibile. Questo è un problema, un problema grandissimo. Sicuramente il problema sanitario è la cosa più importante. C'è anche un problema di carattere economico, c'è un settore in crisi, in ginocchio, non soltanto gli artisti ma soprattutto i locali, le maestranze, i tecnici, tutte persone che senza avere la sicurezza di avere una programmazione, di avere il lavoro assicurato per le prossime settimane, i prossimi mesi, è veramente un contraccolpo gravissimo. Spero vivamente che il governo adotti tutte le soluzioni adeguate per la vita di tutti i giorni di tante persone che hanno famiglia e che fanno un lavoro magari un po' oscuro, ma che è fondamentale per la vita culturale di questo paese. Ed è tutto per questa puntata di Radio Tube, l'intervista con Gulino. I prossimi appuntamenti con Radio Tube sono il sabato con Social Village e Social Network in diretta dalle 16:00.